Se risulta in transizione di fase, questo è Saucer Full of Secrets, trasmissione che vi tiene compagnia ogni giorno dalle 15 alle 17. Che dire, oggi sarà una puntata abbastanza revival. Se riuscirò a far funzionare il talkover, elimineremo finalmente il vuoto mentre parlo. E si sentirà la musica di sottofondo, almeno suonerà un attimo tutto quanto un po' più professionale. E cominciamo subito facendovi ascoltare una canzone che è stata resa famosa da Eric Clapton, che però andiamo ad ascoltare nella sua versione originaria. Questa è After Midnight e questa è la versione originaria, come ho detto prima, e lui è JJ Cale. After Midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, an exhibition, find out what is a whole haven. After midnight, we gonna let it all hang. Niente ragazzi, la funzione talkover non funziona. Io parlavo col microfono sulla canzone azionando il talkover, ma a quanto pare non se ne parla che funzioni. Comunque era After Midnight di JJ Cale. Continuiamo così, continuiamo ascoltandoci un pezzo che appena lo sentirete ve lo ricorderete sicuramente. Ne ha rifatto una sua versione, ne ha rifatto una sua versione Shaggy non molto tempo fa, purtroppo. Noi ci ascoltiamo anche in questo caso l'originale, datata 1970. Loro sono Mango & Jerry, questa è In the Summertime. In the summertime, when the weather is is high. You can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive. Go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I threaten people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Erano Mango Jerry con In the Summertime, e dalla Summertime di Mango e Jerry passiamo invece ad ascoltare un vecchio pezzo sempre sul rock and roll dei primi tempi, quando ancora non era proprio rock and roll. Oggi, l'ho già detto, sarà tutta una puntata revival. Loro sono gli Everly Brothers e questa è la loro Wake Up Little Susie. Wake up, ascoltiamo gli Everly Brothers con Wake Up Little Susie. Adesso è il momento di inserirmi proprio tante tante tante cose, perché erano tenuta in una cassetta che la Fiat aveva fatto per promuovere non so che, non so quale macchine, insomma c'era una compilation della Fiat, e mia madre lavorava in una concessione della Fiat e questa cassetta girava per casa, girava in macchina, girava nel mio stereo, e c'era questa canzone che mi ricordava tante cose. E lui è Christy e questa è Yellow River. Con Yellow River, ditemelo se il microfono cacca, perché sto abbassando, ecco, sto passando da qui, perfetto, adesso dovrei alzare di qua, ecco. Allora, era Christy con Yellow River. Il prossimo pezzo è legato non so a cosa, però soprattutto è legato a qualche cosa di Rete 4, non so se era la musichetta della pubblicità del ciclo Bellissimi prima che fosse il film Exit di Sherry Crow. Comunque quando la sentirete vi ricorderà sicuramente qualcosa, a me fa questo effetto. Lui è Jerry Rafferty e la canzone che andiamo a ascoltare si chiama Baker Street. Dunque era Jerry Rafferty con Baker Street e la prossima canzone è di Susie 4, pseudonimo di Susan K. Quattronella. Lei è una bassista e cantante statunitense ed è stata un importante esponente femminile del glam rock negli anni 70. Di Susie 4 andiamo a sentirci 48 Crash. Thank you. E allora era Susy 4 con 48 Crash. Dunque, dopo Susy 4 ci andiamo a sentire un altro gruppo dannatamente glam. Loro sono gli Sweet. Gli Sweet che compaiono anche in Velvet Goldmine. Gli Sweet io l'ho conosciuti per Teenage Rampage. Una delle canzoni forse più glam che io abbia mai ascoltato, a parte ovviamente alcune cose di Bowie. Qui invece gli Sweet li andiamo a sentire con Ballroom Blitz. Sweet con Ballroom Blitz. Adesso parliamo di una canzone, originariamente di Stevie Wonder del 1973 dell'album Inner Visions. La canzone si chiama Higher Ground e è stata posizionata alla posizione 261 nella lista delle 500 migliori canzoni della storia secondo la rivista Rolling Stone. Questa Higher Ground è stata resa famosa dai Red Hot Chili Peppers nel 1989, sicuramente ve la ricorderete adesso che sentirete il testo. Noi ci ascoltiamo un'altra versione ancora, ovvero la versione di Ike e Tina Turner nel 1974, ovvero un anno dopo la prima incisione, quella originale di Stevie Wonder. Quindi Ike e Tina Turner con Higher Ground. There's a lot of messages going on in the world today. This here is a message. Not only is it a good message, but it's a right message. Ike e Tina Turner con Higher Ground. Facciamo una breve parentesi spostandoci un attimo dagli anni 50, 60 e 70, aprendo una brevissima parentesi per quanto riguarda gli anni 80, anche se questo pezzo è più del 78 che 80, ma introduce molte cose degli anni 80, soprattutto le influenze che questo pezzo ha dato a Jimmy Somerville e ai suoi Bronski Beat. Appartiene dunque alla disco music, come molta roba del 78. Lui è Sylvester, questo è You Make Me Feel. Allora era Sylvester con You Make Me Feel. Adesso passiamo a un gruppo contemporaneo formatosi nel 2000, ancora in attività. Loro sono i Kills, sono una band formata solamente dalla cantante Alison Mossart e dal chitarrista Jamie Hinds. I loro album sono stati oggetto di numerose critiche a causa dei loro contenuti. Noi ci ascoltiamo un pezzo dal loro terzo e finora ultimo album, ovvero Midnight Boom del 2008. Questo è Getting Down, loro sono i Kills. What's going on, Father? I want you to know. a message from my old coat pocket. My spirit's alive, I want you to know. I'm getting down with the young drunk lovers. I'm getting down with the one way pack. I'm getting down with the city and the pity of it. Loro erano i Kills con Getting Down, e il prossimo pezzo introduce, no, introduce diciamo no, però il prossimo pezzo mi serve come aggancio per ricordarvi, anzi dirvi, dato che ancora non ve l'ho detto, che martedì 18 maggio questa trasmissione verterà esclusivamente sui Joy Division. Ripercorreremo tutta la storia di Joy Division dalla prima parola cantata da Ian Curtis fino all'ultima, poiché proprio il 18 maggio cade il 30° anniversario della morte di Ian. Si era impiccato il 18 maggio del 1980, e quindi la trasmissione di martedì nel 30° anniversario della sua morte sarà tutta sui Joy Division. Il pezzo che voglio farvi sentire non appartiene ai Joy Division, appartiene a New Order, ovvero la continuazione, quella che è stata la continuazione dei Joy Division senza Ian Curtis, molto influenzati dalla scena disco di Manchester, da tutto quello che è diventato Manchester dopo la morte di Ian. Dunque ci ascoltiamo quindi In New Order, questa è Ceremony, e niente, buon ascolto a tutti quanti. Questa canzone era contenuta nell'album Movement Era, datata 1981. Dunque dicevo, loro erano i New Order con Ceremony e adesso ci sentiamo un pezzo invece ritornando al discorso del rock contemporaneo. Ci ascoltiamo un pezzo del 2008. Loro sono i Veto e dal loro album Crushing Digits andiamo a sentirci questa You Can't Afford It. Erano i Veto con You Can Afford It e il prossimo pezzo che ci ascoltiamo invece è di una delle più importanti formazioni del Gothic Rock. Sono la migliore creatura di Roz Williams e sto parlando ovviamente dei Christian Death. Christian Death formatisi Comunque, Christian Death che si sono formati a Los Angeles nel 1979 fino all'85, poi hanno avuto una reunion nel 92 fino al 95. E ci ascoltiamo forse il pezzo più conosciuto dei Christian Death. Questa è Romeo's Distress ed era contenuta nell'album del 1982 che prendeva il titolo di Holy Theater of Pain. Loro sono i Christian Death. Erano i Christian Death con Romeo Distress. Il prossimo gruppo il prossimo gruppo è una band scozzese di Glasgow. Sono i Franz Ferdinand, si sono formati nel 2003. E Franz Ferdinand, che sicuramente già conoscete, noi ci andiamo a sentire The Fallen, una canzone che però ci ascoltiamo nella versione tratta dall'album Remixes di Justice. Justice è un progetto dance che ha preso un bel po' di canzoni indie rock e ci ha fatto i remix. Uno di questi è appunto quella che ci andiamo a sentire. Quindi, questo è The Fallen, loro sono i Franz Ferdinand nel remix dei Justice. Bring out the fish and on the bean. Turn the rich into wine and you walk on the mean. Well, go. Well, hit me again. Ah, the word is destroy. Out. Make this bottle drink of you on the boy. We're all bound. Doctors! Doctors! Need a bit of black and blue to be a need a brother. Brother. Need a bit of black and blue to be a need a patient. Loro erano i Franz Ferdinand con The Fallen, il remix di Justice. Prossimo pezzo è del 2005, si tratta dei Frustration e la canzone che andiamo a sentirci è la loro Artist Suck. Questi erano i Frustration con Artist Suck e purtroppo non mi sono preparato il prossimo pezzo. Se non lo sapete, facciamo tante cose improvvisate, ma tante. E dato che non mi sono preparato il prossimo pezzo, vi faccio sentire il gruppo che sono andato a vedere più o meno una settimana fa. Loro sono gli Efterklang, gruppo danese che fanno un bel po' di roba strana, comunque sia fanno indie, e dall'ultimo album, ovvero Magic Chairs, uscito proprio quest'anno, ci andiamo a sentire Full Moon. Loro sono gli Efterklang. There is Abbiamo ascoltato gli Efterklang con Full Moon. È il momento di un altro gruppo contemporaneo, un altro gruppo indie. Loro sono gli Who Made Who, che sicuramente prendono il nome da una raccolta degli AC/DC pubblicata nell'86 come colonna sonora del film Brivido di Stephen King. E, dicevo, gli Who Made Who, che andiamo a sentire in un pezzo del 2005 dal loro album di debutto che prendeva il loro nome. Questo è Hello Empty Room. We'll be right back. Erano gli Who Made Who con Hello Empty Room. E dunque, il prossimo pezzo è di un duo electropop formatosi nel 97 in Belgio. Loro sono i Vive La Fête, che credo significhi viva la festa, mi sa di sì. I Vive La Fête nascono, come ho già detto, nel 97, quando Danny Moments, che all'epoca era il bassista dei Deus, registra insieme a Els Pino, un ex modella, alcune demo. Queste demo poi vengono pubblicate sull'EP Geneve Pas, a volte chiamato anche Paris. E noi dei Vive La Fête ci ascoltiamo un pezzo del 2005 dal loro album Grand Prix. Questa è Exatement. Loro sono i Vive La Fête. E allora, erano i Vive La Fête con Exactement. Il prossimo pezzo ha fatto storia sia nella musica disco anni 80, sia in alcuni film. Anzi, mi sembra proprio di averlo sentito in qualche film, poi non l'ho trovato per anni. E se vogliamo anche è anche un po' trash. Loro sono gli Yellow Questa canzone del 1985 si chiama Oh Yeah. Allora erano gli Yellow con Oh Yeah, e il prossimo pezzo è di una band svizzera che si chiama Rorschach o Rorschach, insomma non so come si pronuncia perché comunque è svizzero. Rorschach Garden, e prende il nome da Rorschach, comune svizzero del canton San Gallo. Li ascoltiamo in un pezzo dal loro album di debutto del 2004 che prende il loro nome. La canzone che andiamo a sentirci si intitola Devotion. Show you something you can't grasp. Turning myths. misery into entertainment, distorting fear into parody. They tell you that this time is rational, way too much for a peaceful life. Machine made plans to threat all nations, to make them all shorter. Just keep a constant watch on social devolution. A lot of things make me a threat, but I have no solution. Just keep a constant watch on social devolution. A lot of things make me a threat, but I have no solution. Erano i Rorschach Garden con Devotion. Prossimo pezzo, torniamo in questo modo al francese. Prossimo pezzo sono i My Sister Klaus, che dall'album del 2007 Chateau Rouge andiamo a sentire proprio nella canzone che dà il titolo all'album, quindi questo è Chateau Rouge, loro sono i My Sister Klaus. Tout le cœur se bouge. Poumons calcinés, pays de ténèbres, rêves assassinés. On s'y met jamais l'air étonnant. Léon Rémira passe sans arrêter. Le crack et le PCP, ce n'est pas dans les yeux qu'il faut. Chateau rouge. C'est là que c'est chaud, mec. Une sacrée zone pour les jeunes blancs becs. Chateau rouge. Le mac, le dealer. Ici sont les rois. Misère et torpeur. Toujours aux abois. Chateau rouge. Collapse en OD. Yeah. E allora erano i My Sister Claus con Chateau Rouge. E detto questo, ci sentiamo un pezzo di un genio assoluto dell'elettronica, dato che stiamo flirtando tra rock e elettronica, sospesi fra queste due cose. Ci ascoltiamo quello che per me è il genio assoluto dell'elettronica e che ho passato fin troppe poche volte. Non sto parlando di FX Twin, sto parlando di Square Pusher, che ascoltiamo con una canzone tratta dall'album Big Loada del 1997. Questa è Come On My Selector, lui è Square Pusher. Sense right, mate, that sends it up Goldie. No, sense right, mate, that sends it up Goldie. Era Square Pusher con la sua Come On My Selector. Siamo quasi arrivati alla fine, siete sempre su Transizione di Fase. Questo è sempre Saucer Full of Secrets e io sono sempre Alex, che non può stendere la gamba dato un cavolo di stiramento all'inguine. E non poter stirare la gamba, guardate, è una cosa veramente brutta. Prossimo pezzo di un gruppo musicale di electropop, electro dance, che vuol dire? Vabbè, electropop dance, formato da 5 ragazzi. Si sono formati nel 2000 a Londra, si chiamano Hot Chip. E noi degli Hot Chip andiamo a sentirci un pezzo dall'album The Warning del 2006. Questa è And I Was a Boy from School. We don't belong. Chip con And I Was a Boy from School. Il prossimo pezzo, se vogliamo, è un inno della dance di 90. Lui è Dr. Alban, cantante nigeriano naturalizzato svedese, e il nome d'arte Dr. Alban si deve ai suoi studi giovanili di odontoiatria. Dr. Alban raggiunge la fama internazionale proprio negli anni 90 con l'album di debutto Hello Africa, e da cui vengono estratti un po' di singoli come It's My Life, Stop the Pollution, Hello Africa e il pezzo che andiamo a sentirci adesso. Questo è No Cock, lui è Dr. Alban. All massive mountain, cause when I come rough, in a regular ragamuffin business, Hip hop reggae in a dancehall style. Hip hop reggae in a dancehall style. Hip hop reggae in a dancehall style. 2 o'clock on a Friday morning. Come a gun man, come a knife man. That fucking dancer mash up the cars. On the roll, me say come a King Street. Yeah, he was arrested and tested, and the drugs he had in him, he confessed it. Because he know the youth in this country. Woolly for boys and a woolly for girls. Drug abuse is a dangerous thing. Start up drugs and stop the violence. In a decent time, we have to abuse the drugs. Listen what I say, hey, I'm a part of you. Too much drugs, you can't go mental. That's how Dr. Alban tell everybody. We no want no coke, no heroin. No hash, hash, no amphetamine. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. One time, two time, they make a million. Take all the money, run a foreign country. Build a big house, buy a big limousine. That's why I'm a person, therefore do the right thing. That's why Jah sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low. Could not differentiate what is right from wrong. We no want no cocaine, no heroin. No hash, hash, no amphetamine. No marijuana planted in a me yard. Okay. We have one friend, them a call him Dennis Buff. Him have a little son, them a call him Daniel. He live a two room in a Stockholm city. One color TV, two stereo. He's a DJ producer of higher quality. He no deal with booze and abuse of drug. I saw me giving time, some face, Jah know. We play heavy rhythm in a dancehall style. Hip hop, bring me soul, funk and blues. One crack in the morning, crack in the evening, crack in the night, and crack now stop. No one, no coke, no heroin. Allora, era Dr. Alban con con No Cock e siamo arrivati alla penultima canzone di oggi. Se è vero che non è capitato quasi mai, se non due volte mi pare, che io mandassi qualche canzone in francese, è vero anche che non capiterà mai più, penso, come oggi che manderò tre canzoni in francese nella stessa trasmissione. Dico questo perché la penultima canzone di oggi è proprio in francese. E loro sono i Dernière Volonté, e dal loro album del 2008 che si chiamava Devant le Miroir ci ascoltiamo questa Douce in Hirondelle. Erano i Dernière Volonté con Douce Hirondelle. Stavo guardando la scaletta di oggi e mi stavo compiacendo di me stesso. E sto per pubblicare la scaletta sul blog della trasmissione, ovvero sos.noblogs.org. SOS non sono altro che le iniziali di Social Full of Secrets, questa trasmissione che prende il nome dal secondo album dei Floyd. E dunque, ultima canzone di oggi, mentre vi ricordo che gli appuntamenti di oggi con transizioni di fase, sono Out of the Shell, come ogni sera dalle 23 all'1 di notte, Delirio Indipendente di Intervento Sociale a cura di Ciccio. Stasera, come ogni giorno, dalle 8 alle 8 e mezza, c'è Buona Pesca, audio blobbing di attualità a cura di Luther Blissett. Siete sempre su Transizioni di Fase. Questa era Social Full of Secrets, trasmissione che torna domani, come sempre alle 15. State sempre in ascolto, perché ci potranno essere modifiche sugli orari, può darsi che cambieremo gli orari di questa trasmissione, la porteremo dalle 16 alle 18. Comunque, per domani, come sempre alle 15, come sempre qui su Transizioni di Fase. E un bacio e un abbraccio a tutti da Alex. Questo è l'ultimo pezzo, e si tratta di un lavoro solista di George Harrison, e si intitola My Sweet Lord. Quando finirà, ricomincerà come sempre il random 24 ore su 24, caratteristica distintiva di Transizioni di Fase. E a domani. Vi saluto con questa My Sweet Lord.